L'Evangelista Giovanni ha dato una testimonianza in merito a Gesù veramente unica. Dopo aver raccontato l'episodio del paralitico che viene guarito in giorno di sabato, Giovanni commenta: «Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva queste cose di sabato. Ma Gesù rispose loro: "Il Padre mio opera fino ad ora, e anch'io opero". Per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Giovanna 5, 16-18. In questa affermazione Giovanni ha mirabilmente riassunto il motivo per cui Gesù è stato condannato e messo in croce. Diceva di essere Dio e violava il sabato. Che Gesù sia stato crocifisso perché diceva di essere Dio è anche comprensibile, dato che i giudei ritenevano impossibile che Dio potesse assumere sembianze umane. Ma che Gesù sia stato anche crocifisso perché trasgrediva il sabato è una ragione non sempre facile da comprendere. Eppure, se alcuni capi religiosi ebrei hanno ritenuto opportuno crocifiggere il Figlio di Dio perché trasgrediva il sabato, significa che l'osservanza del sabato era di vitale importanza. Che valore aveva per gli ebrei il sabato? Come mai i giudei accusavano Gesù di violare il sabato quando sappiamo che egli non commise nessuna trasgressione? Rispondere a queste domande non serve solo per dare una risposta, ma è necessario per comprendere il rapporto esistente tra Gesù e il sabato, e di conseguenza anche il rapporto che è tra il credente e i comandamenti di Dio, rappresentati in questo caso dalla legge del sabato. Degno di nota è il fatto che il sabato è la sola osservanza cultuale prescritta nel Decalogo ed era pure l'unico giorno della settimana ad avere un nome perché gli altri giorni venivano indicati con numeri. La parola sabbat, da dove deriva sabato, in ebraico significa cessare, e l'idea che contiene è semplicemente quella negativa di cessazione di lavoro, non quella di riposo o di ristoro della forze. Ecco perché leggiamo nel libro della Genesi che l'Eterno Dio si riposò il settimo giorno. L'Eterno non si riposò perché era stanco, ma cessò di creare e di restaurare la terra. Il vocabolo sabato nella parola di Dio ricorre per la prima volta in Esodo 16 e 23, anche se era la più antica istituzione religiosa. Il popolo di Israele aveva miracolosamente guadato all'asciutto il Mar Rosso e stava attraversando il deserto per andare nella terra promessa. Dopo 45 giorni dall'uscita dall'Egitto, il popolo si lamenta perché non ha cibo. L'Eterno provvede miracolosamente con la manna, ordinando di non raccoglierla il settimo giorno. Sul monte Sinai l'Eterno dà tutta una serie di leggi a Mosè, e per ultima quella concernente il sabato. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: "Parla anche ai figli di Israele dicendo: badate bene di osservare i miei sabati, perché è un segno fra me e voi per tutte le vostre generazioni, affinché conosciate che io sono l'Eterno che vi santifica. Osserverete dunque il sabato, perché è per voi un giorno santo. Chi lo profana sarà messo a morte. Chiunque fa in esso qualche lavoro sarà sterminato da mezzo del suo popolo. Si lavorerà sei giorni, ma il settimo giorno è sabato di riposo, sacro all'Eterno. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno di sabato sarà messo a morte. I figli di Israele perciò osserveranno il sabato, celebrando il sabato di generazione in generazione, come un patto perpetuo. Esso è un segno perpetuo fra me e i figli di Israele, poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, e il settimo giorno si riposò e fu ristorato". Quando l'Eterno ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole della testimonianza, tavole di pietra, scritte col dito di Dio, Esodo 31, 12-18. L'osservanza del giorno di riposo del sabato era talmente importante per l'Eterno da ordinare per due volte la pena di morte per chi lo avesse trasgredito. Purtroppo, se ci fu una legge che il popolo di Israele trasgredì, fu proprio quella del sabato. Per questo a più riprese i profeti, tra i tanti peccati, rinfacciarono al popolo dell'Eterno la violazione del sabato. E anche per questo Israele divenne schiavo di altre nazioni. Fu così che nel secondo secolo avanti Cristo sorse un movimento chiamato dei Pii, che con i Maccabei si oppose al tentativo di introdurre elementi greci nella cultura ebraica. Agli inizi aderivano strettamente alla legge di Mosè, ma in un secondo tempo aggiunsero alla legge cavilli e interpretazioni basate su tradizioni. Fu così che nel loro zelo imposero leggi assurde riguardo al sabato. Mentre l'Eterno aveva ordinato di non far da mangiare il sabato, di non accendere il fuoco, di non superare la distanza di 1400 metri, i farisei avevano aggiunto decine di regole insensate quali non camminare sull'erba o non esercitare in nessun caso la medicina. In questo contesto di formalismo religioso in merito al sabato, che nacque, visse e si ribellò Gesù. Mentre i farisei avevano fatto della festa del sabato una legge disumana, Gesù prendeva ogni occasione per spiegare loro il vero valore del sabato. Leggiamo un episodio in merito. In quel tempo, Gesù camminava in giorno di sabato tra i campi di grano. Ora i suoi discepoli ebbero fame e si misero a svellere delle spighe e a mangiarle. Ma i farisei, veduto ciò, gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito fare in giorno di sabato». Ed egli disse loro: «Non avete letto ciò che fece Davide quando ebbe fame, egli e quelli che erano con lui? Come egli entrò nella casa di Dio e mangiò i pani della presentazione, che non era lecito mangiare né a lui né a quelli che erano con lui, ma solo ai sacerdoti? Ovvero, non avete letto nella legge che nel Tempio i sacerdoti, nei giorni di sabato, trasgrediscono il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui ci è qualcuno più grande del Tempio. Ora, se voi sapeste che cosa significa «io voglio misericordia e non sacrificio», non avreste condannato gli innocenti, perché il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Poi, partitosi di là, entrò nella loro sinagoga, ed ecco, vi era un uomo che aveva una mano secca, ed essi domandarono a Gesù, per poterlo poi accusare: «È lecito guarire qualcuno in giorno di sabato?» Ed egli disse loro: «Chi è l'uomo fra voi che, avendo una pecora, se questa cade in giorno di sabato in una fossa, non la prenda e non la tiri fuori? Ora, quanto vale un uomo più di una pecora? È dunque lecito fare del bene in giorno di sabato?» Allora egli disse a quell'uomo: «Stendi la tua mano». Ed egli la stese e fu resa sana come l'altra. Ma i farisei, usciti fuori, tennero consiglio contro di lui del come farlo morire. Matteo 12:1-14. Il conflitto tra i farisei e Gesù non era campato in aria e di poca importanza, perché si trattava di un comandamento la cui trasgressione comportava la pena di morte. I discepoli facevano effettivamente un lavoro perché presero delle spighe, eliminarono la parte non commestibile e le mangiarono. Questo atto era preparare da mangiare, era un atto lavorativo, cosa proibita assolutamente da Dio. Quindi, i farisei non avevano legalmente torto, sapevano che stavano parlando con qualcuno che la sapeva lunga e non potevano permettersi di sbagliare. Proprio per questo Gesù non dice ai farisei che avevano torto, ma li porta due esempi per dimostrare che erano comunque in torto nel giudicare, anche se dal punto di vista della legge la loro condanna non faceva una piega. Gesù ricorda che il re Davide mangiò del pane consacrato riservato solo ai sacerdoti, ma lo fece in una situazione di vita o di morte, quando il diritto al cibo era prima del rispetto della legge. Inoltre, Gesù ricorda i farisei, i quali con i sadducei e gli esseni costituivano uno dei tre gruppi religiosi preeminenti, che i sacerdoti nel Tempio lavoravano di sabato ma non erano colpevoli. Questi episodi possono e devono gettare luce sulla nostra morale. L'Eterno aveva dato la legge del sabato tanto precisa quanto severa, ma di fronte ad una necessità di vita o di morte, non ne teneva conto. Inoltre, la disobbedienza dei sacerdoti nel Tempio ci rivela che non sempre è possibile osservare tutta la legge di Dio, perché a volte nell'osservare un comandamento di Dio se ne trasgredisce un altro. Proprio per questa impossibilità di avere un comportamento che possa soddisfare pienamente il volere di Dio, Gesù aggiunse, secondo l'Evangelo di Marco, Il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Marco 2:27. Dicendo questo, Gesù ha messo in evidenza che la legge promulgata da Dio aveva ed ha lo scopo di venire incontro alle necessità dell'uomo e non quello di sopprimerlo. Dio ha dato una legge all'uomo perché le fosse di beneficio e non per mettergli pesi. Vedere le leggi di Dio come emendamenti da espiare e disonorare il legislatore è pervertire la buona, perfetta e accettevole volontà di Dio. Ancora oggi chi ritiene più importante, come i farisei, l'esteriorità e non la realtà spirituale, chi guarda i riti anziché alla santità della vita, chi detta regole umane inventate trascurando l'ubbidienza alla verità delle scritture, riceve lo stesso epiteto che ricevettero i farisei, ipocrita. I rappresentanti del clero avevano fatto della legge del sabato una barriera tra Dio e il suo popolo, anziché uno strumento gioioso di vita e di servizio. Gesù guariva in giorno di sabato non solo perché era Dio, ma per insegnare il valore della legge. Chi trasgredisce la legge di Dio per il piacere di trasgredirla o di essere un trasgressore merita la condanna, ma chi trasgredisce la legge di Dio pur osservandone lo spirito è approvato da Dio. E come l'autoambulanza della Croce Rossa a sirene spiegate che passa con il semaforo rosso. Trasgredisce la legge ma ne osserva il principio. Il passare con il semaforo rosso per l'autoambulanza non è legale ma rimane legittimo. Se il rapporto di Gesù con la legge del sabato non ci ha insegnato questo, degli innocenti saranno sempre sotto condanna. 2005070708 Ellero